Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 28 maggio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma che parla tra il carcere e la città. Io sono sempre Caterina Bombarda, la conduzione con Antonella Cortese. Buongiorno Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. E siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko, ore 9, Teletricolore e Lepida TV, canale 118, alle ore 13. E oggi ho una notizia singolare, un po' particolare, perché siamo a Voghera, detenuti e bambini dell'asilo, collaborazione a distanza. Lo leggo da il quotidiano La Provincia di Pavese, a cura di Alessio Alfretti. Perché cosa succede in provincia di Voghera? Un carcere e un asilo, un binomio insolito chiaramente, che però regala grandi sorprese, perché da alcuni mesi la casa circondariale di Voghera ha avviato una collaborazione con la Fondazione Marzotto di Mortara, e che ospita una casa di riposo e un centro diurno e una scuola di infanzia. In cosa è consistita questa collaborazione? È consistita appunto in una collaborazione a distanza tra detenuti che lavorano nella falegnameria del carcere e i bambini dell'asilo. I primi, cioè i detenuti, confezionano manufatti in legno e i secondi, i bambini, li completano. Straordinario. È una sinergia bellissima, ma com'è nata questa esperienza? Guarda Antonella, è nato tutto per caso, con un piccolo gesto del carcere per la struttura mortarese. E poi grazie alla lungimiranza delle persone, quindi del direttore della casa circondariale Stefania Mussio e della dirigente scolastica Anna Maria Pissi, è nata questa insolita collaborazione che è diventata un appuntamento fisso. In sostanza si sono accorte che la collaborazione funzionava e allora hanno detto perché no, facciamola andare avanti. Le persone detenute addette alla falegnameria hanno creato una serie di oggetti di legno che i bambini della scuola materna hanno decorato e donato ai propri genitori, e questo in occasione di speciali festività, per esempio pensiamo alla festa del papà, alla festa della mamma, e poi alla fine hanno cominciato anche a realizzare alcune pedine della dama che i bambini decoravano, e poi sono passati a fare alcuni alimenti in legno per le cucine dei bambini che i bambini hanno colorato e utilizzato per giocare in qualche modo. Quindi questo progetto ha potuto beneficiare anche dell'aiuto del personale del gruppo Mauro Saviola, che ha sede appunto a Mortara, e ha espresso la disponibilità a donare all'istituto penitenziario dei pannelli di legno da utilizzare per incrementare in qualche modo e sostenere questa attività artigianale del laboratorio. Quindi è una sinergia che si è creata tra diverse realtà del territorio, un esempio importante. Sì, infatti sarebbe un esempio meraviglioso da seguire. Proprio perché insomma bisogna avvicinare tutte le realtà e devono tutte collaborare insieme. Senti, ma a tal proposito, quali prospettive ci sono per il futuro? Questo progetto potrà continuare? Ma sembra un progetto destinato effettivamente a continuare, perché da un lato dà possibilità di creatività in carcere, ma anche ai più piccoli, di proseguire un'attività iniziata in un altro luogo rispetto a loro. È un incontro quindi tra realtà molto diverse, tuttavia questi aspetti educativi per l'uno e l'altro sistema contribuiscono a favorire la crescita e il recupero di valori e pensieri positivi. Quindi l'intenzione è quella chiaramente di andare avanti, e speriamo che sia così. Caterina, mi ricorda proprio il flourishing di cui abbiamo parlato in una trasmissione precedente, e si ricollega ancora a questa cosa: dobbiamo rifiorire, per rifiorire bisogna farlo insieme, non ci sono altre possibilità. E intanto anche oggi c'è Jim Morrison, non sbaglio? Anche oggi chiudiamo la nostra settimana con Jim Morrison, il brano è Roadhouse Blues, un brano, pensate, che è stato registrato in 2 giorni e ascoltiamolo, divenne in pochissimo tempo una delle canzoni più amate e un must delle loro esibizioni live. Keep your eyes on the road, you hand upon the wheel. Rieccoci, bentornati, sempre sulle note di Jim Morrison, a chiusura della nostra settimana di Buongiorno di Liberi Dentro. Ora siamo sempre con te, Antonella, perché l'appuntamento fisso della nostra settimana è con gli animali. Oggi di che animali ci parli? Oggi vi parlo degli animali, proprio degli animali in generale e del loro potere. Veramente sono i nostri supereroi in certe situazioni, perché proprio in questi tempi di distanziamento forzato l'essere umano cerca istintivamente la vicinanza con gli animali. Chi ha un cane o un gatto in casa se ne è accorto di quanto sia stato importante averlo vicino. E, infatti sono in grado di offrire molto più di quanto i proprietari stessi possano immaginare. Lo dimostrano diversi studi in cui appunto si mette in rilievo quanto facciano bene non solo allo spirito ma anche al corpo. Infatti un animale domestico può aiutare a sopportare meglio il dolore o la lontananza dagli amici, dai parenti, dalle persone care, e regala allegria. Qualcuno riesce perfino a trovare di nuovo la voglia di vivere anche dopo una disgrazia. La biologa Cornelia Dreis, di 64 anni, che 20 anni fa ha cominciato a fare un corso per praticare la pet therapy, sostiene che con gli animali facciamo il pieno di energia. E infatti lei una volta alla settimana va con un trasportino, non con cani e gatti, ma con 10 porcellini d'India e 4 galline, in una clinica psichiatrica di Brema, e, proprio perché fa questo tipo di attività con le persone, con i malati psichiatrici. E nel suo lavoro la dottoressa fa leva su quella che potrebbe essere un'antichissima inclinazione umana, che si chiama appunto la biofilia. La biofilia significa più o meno amore per la vita. E nel 1984 il biologo di Harvard, Edward Wilson, sviluppò questa teoria intorno all'idea che l'essere umano abbia una spinta innata, che si sviluppa nel corso di centinaia di anni, verso il mondo vegetale e il mondo animale, verso tutti gli altri esseri viventi in realtà. E quindi questa cosiddetta biofilia, ma come si è capito l'influenza positiva degli animali? Guarda, alcuni ricercatori hanno riscontrato un interesse precoce addirittura nei neonati per gli animali. Pensa che per intrattenere i bambini anche noi in realtà siamo cresciuti con i cartoni animati della Disney. La Disney ha subito capito che gli animali sono protagonisti importanti non solo nel film ma anche nella nostra vita. E gli animali infatti sono in grado di esercitare una grande influenza su di noi, tant'è che alcuni studiosi hanno capito che bambini e ragazzi che crescono insieme a un animale hanno più autostima e perfino maggiori capacità cognitive dei loro coetanei che in casa non hanno cani o gatti. E gli animali hanno quindi un effetto positivo sia sui bambini, sugli adolescenti, ma anche sugli adulti. E infatti nel 1980 una scienziata pubblicò una ricerca pionieristica. Aveva infatti scoperto che i pazienti reduci da un infarto avevano una maggiore possibilità di cavarsela se avevano un cane. Questo studio viene ancora citato e ha preparato in realtà il terreno per le successive ricerche. Nel 2017 in Svezia un gruppo di studiose ha comparato i dati relativi a più di 3,4 milioni di donne e uomini, dimostrando che con un cane si riduce il rischio di malattie cardiovascolari, in particolare tra chi vive da solo. Antonella, come succede? Qual è il meccanismo che produce in qualche modo questa empatia tra uomo e animale? Facciamo sempre ricorso alla scienza, ovviamente, e il meccanismo causale è in effetti risiede in un neurotrasmettitore prodotto da quasi tutti i mammiferi, è l'ossitocina, che è l'ormone che riduce l'ansia e allevia lo stress. È anche l'ormone dell'attaccamento, tant'è che viene prodotto durante il periodo dell'allattamento. Alcune ricerche dimostrano che accarezzare il cane, guardarlo negli occhi, produce più o meno una reazione simile. Da allora molte ricerche hanno anche confermato gli effetti positivi del rapporto con gli animali sulla salute mentale. Sono addirittura questi effetti comparabili a quelli degli antidepressivi, tanto per dire. Oggi gli animali lavorano in case per anziani, nei reparti dedicati a chi soffre di demenza, nelle scuole, negli asili e quindi in tanti luoghi dove è necessaria appunto la loro presenza, che è una presenza che non chiede nulla in realtà. Gli animali danno incondizionatamente. E anche ci sono degli esperimenti anche in alcune carceri, per esempio nel carcere di Heisenberg si impiega una cagnolina a scopi terapeutici. Anche a Parma in realtà è stato fatto questo progetto in passato e infatti furono introdotti degli animali e questa attività fu svolta dall'area pedagogica sulla media ed alta sicurezza, nell'allora equip allargata che coinvolgeva anche degli psichiatri. Antonella, se ti dico love, love, love, cosa mi dici? Io ti dico Mario Biondi, cosa vuoi che ti dica? Fa parte sempre del suo ultimo album, There. Ed è una canzone effervescente. Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro, siamo sempre con la nostra Maria Inglese, sempre sulle onde di Liberi Dentro du Radio. Buongiorno, bentornata. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Allora Maria, abbiamo parlato più volte nel corso dei nostri appuntamenti delle malattie dell'istituzione carceraria. E tra queste forse un argomento che non abbiamo toccato fino ad ora è il rapporto, cioè le relazioni esterne dei detenuti, quindi il rapporto con i propri affetti, la propria famiglia. Perché è vero, la detenzione rappresentava veramente un evento traumatico per i soggetti coinvolti e spesso ti ritrovi ad abbandonare le radici da cui provieni. E questo può portare anche sistematicamente a una disorganizzazione della propria vita, della propria identità. E quindi io ti volevo chiedere, per quello che riguarda le relazioni esterne, quindi la famiglia, gli affetti, ma anche i volontari, per esempio, che entrano in carcere esternamente, pensi che siano importanti per far sì che le persone ristrette non perdano la propria identità e come si fa a mantenere una relazione sana, per così dire, in questa disparità, intendo dire, in questa disparità di provenienze? Allora, penso che potremmo aggiungere tra le malattie del carcere proprio quella dello slegame, dello sradicamento, cioè del non riuscire a mantenere le proprie radici, le proprie appartenenze. E questa fa parte un po' delle malattie di oggi del carcere, oltre a quelle delle quali abbiamo già parlato. Allora, penso che sia importante rinnovare quel patto di attesa reciproca che c'è tra il dentro e il fuori. Il legame con chi aspetta fuori, che può essere un legame sano, come dicevi, no? Un legame di affetto tra compagni e compagne, figli o genitori, insomma, un legame che possiamo considerare appunto importante e che rinnova un'appartenenza. Ma però penso che in fondo dobbiamo anche interrogarci su il legame con la comunità e con la collettività, che può essere anche una collettività risentita. Cioè una collettività che ha fatto esperienza della frattura legata al reato. Però ecco, questo penso che sia inevitabile, perché proprio nel momento dell'uscita, della ricucitura con i legami esterni, dobbiamo riuscire a favorire anche il legame con quella parte di comunità che è risentita e che forse è ancora offesa da quello che è successo. Se non lo si fa ora, cioè nel momento in cui la persona sta per uscire dal carcere, non mi viene in mente nessun altro momento nel quale si possa fare, cioè se non ora, quando, se non in quel momento lì, quando appunto la persona deve in un certo senso ritornare a casa. Deve, vuole ritornare a casa. Allora la casa è anche fatta per quelli che sono senza tutto, che escono senza più magari appunto rapporti di parentela, o rapporti familiari o rapporti di affetto che sono stati magari interrotti dalla detenzione. Però bisogna mettersi anche dalla parte di questi, dei senza, no? Quelli che noi definiamo certo. I senza tutto, senza documenti, senza casa, senza famiglia, gli sconfitti, gli esclusi, gli smarriti, ecco. Proprio per loro bisogna pensare a una ricucitura con qualcuno che sia fuori. È sana questa attesa, cioè anche la persona che in fondo esce dal carcere quindi ha un errore al quale rendere conto, no? Alle persone che sono fuori, penso che riuscire a ricucire quel tipo di incontro sia molto sano. Ecco, e Maria, cosa ne pensi quando si sente questa parola, istituzionalizzato, no? Io penso al film Le ali della libertà, dove ci sono questi due protagonisti che dopo 20 anni di prigione si sentono quasi al sicuro dentro quelle mura, sembra un paradosso. E allora volevo chiederti, una volta che avviene la scarcerazione, avviene anche un trauma? Sì, il momento della dimissione è un momento molto molto critico e l'istituzione in fondo è anche una protezione, se vogliamo, per le persone. Ne parlavano già Goffman in Asylum, ma anche Basaglia, no? Quali erano gli effetti dell'istituzionalizzazione. Ne abbiamo parlato anche parlando del libro di Elisa Mauri, perché è il carcere, no? Però la dimissione è veramente un momento che va valorizzato, sia per chi esce, sia per chi accoglie, sia per chi aspetta fuori. E allora questo, secondo me, deve essere un impegno un po' reciproco su una possibilità di capacitazione, cioè di non perdere la propria capacità di essere parte della collettività, della comunità. E il momento della uscita, ricordo benissimo il caso di una persona che noi abbiamo letteralmente accompagnato per mano al momento dell'uscita dopo 20 anni di detenzione. Questa persona non aveva più la famiglia che lo aspettava, ma era totalmente smarrito rispetto al contesto di vita nel quale stava per mettere piede, non sapeva cos'erano gli euro, non sapeva. Si chiedeva, ad esempio, entrando in un supermercato, come mai si ascoltasse la musica dentro il supermercato, non sapeva neanche appunto cosa fossero oggi i centri commerciali. Ecco, è una vertigine quella dell'uscita effettivamente e dobbiamo appunto valorizzare, ad esempio attraverso il tavolo dei dimittenti, cioè la ricostruzione di un percorso in uscita, attivando la comunità, la collettività, il volontariato, le cooperative, oltre che i familiari, a ricucire questo pezzo di storia smarrita. Maria, lancia una canzone. Allora lancio Olenzinho dei Beirut. Caminhando só o sol, gosto muito de você, Leozinho. Para de se entristecer, Leozinho. Meu coração tá só, basta encontrar você no caminho. Filhote de leão. Só Leozinho, de te ver entrar no mar, tua pele, tua olhos, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leozinho, de molhar minha juba, essa aberta de você entrar no mar. E rieccoci, bentornati, siamo sempre con la nostra Maria Inglese, oggi che è venerdì, il nostro appuntamento fisso, per parlare oggi delle relazioni esterne quando si è in carcere, per esempio. E abbiamo parlato poco fa, sempre con Maria, del trauma che potrebbe avvenire quando avviene la scarcerazione, ma adesso volgiamo lo sguardo alle famiglie, a coloro che attendono quando sono fuori. Anche per queste persone avviene una sorta di trauma, un cambiamento del legame, no? Del rapporto. E allora come si può tornare a una normalità, per così dire? È un percorso molto difficile, ma penso anche molto, potrebbe essere molto rigenerativo. Cioè la mia impressione è che, essendo la persona che esce dal carcere una persona diversa da quella che è entrata, e ha fatto il suo percorso, probabilmente anche i conti con le proprie responsabilità, cioè con quello che ha arrecato, il danno arrecato magari alla comunità, alla vittima e anche alla propria famiglia. Allora la possibilità che la persona esca e possa rendere conto del proprio cambiamento anche di fronte ai propri familiari, penso che vada accompagnato, cioè è come se anche la famiglia è cambiata nel frattempo, perché dopo tanti anni di detenzione magari le mogli, i figli crescono, si diventa padri in carcere, si diventa nonni in carcere, no? Allora, penso che proprio l'esperienza del mutamento, del cambiamento, che è una cosa che accomuna tutti, cioè tutti noi siamo diversi negli anni, siamo diversi, diventiamo diversi nel corpo, nella nostra mente, no? Allora questa è un'esperienza comune che riguarda non solo il detenuto in uscita, ma riguarda anche la propria famiglia, che è una famiglia che è mutata nel tempo. E, ecco, riuscire un po' ad accettare la non immutabilità, cioè noi tutti cambiamo, ma nello stesso tempo qualcosa resta immutabile, che è il legame d'affetto e la possibilità di ripartire. Ecco. E allora un'ultima domanda che volevo farti, come aiutarci a cambiare le nostre aspettative? Allora, mi viene da dire, Caterina, che forse dovremmo riuscire a incontrare le storie di queste persone che escono e delle loro famiglie che riaccolgono e che sono lì in attesa. Sarebbe molto bello appunto riuscire a raccontare magari qualcuna di queste storie, e magari questo potrebbe essere uno dei prossimi appuntamenti, nel quale mettere insieme le storie che abbiamo incontrato in carcere, io con la mia collega germana, no? E che magari possono essere proprio anche delle testimonianze di queste storie di famiglie che si ricostruiscono, che si ricostituiscono. Magari questo è un modo per renderci tutti un po' più sensibili a questa possibilità del mutamento e del cambiamento. Grazie, colgo il tuo spunto e allora lancio una canzone io, ti ringrazio tanto, e lancerei allora di Luciano Ligabue, Almeno Credo, forse per cambiare le nostre aspettative. Credo che ci voglia un Dio ed anche un bar. Credo che stanotte ti verrò a trovare per dirci tutto quello che dobbiamo dire, o almeno credo. Credo proprio che non sia già tutto qui. E certi giorni invece credo sia così. Credo al tuo odore e al modo in cui mi fai sentire. A questo credo. Qua nessuno c'ha il libretto di istruzioni. Credo che ognuno ci faccia il giro come viene a suo modo. Qua non c'è mai stato solo un mondo solo. Credo a quel tale che dice in giro che l'amore porta amore. Credo. Se ti serve chiamami scemo, ma io almeno Ben ritrovati a tutti, ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento tra poco, se ci seguite sull'Epida TV, con la rubrica Oggi parliamo di spiritualità islamica e cultura araba. A seguire ci sarà sempre Ricette da cucina, Lost in Translation, dove avremo la ricetta della cheesecake senza cottura al cioccolato, e mentre tutto il weekend ci sono i nostri appuntamenti, le nostre rubriche, quindi domani abbiamo la cappellania del carcere della Dotta, poi il teatro del Pratello, e poi ci sarà un estratto dal film Dustur con l'introduzione di Ignazio De Francesco, mentre la domenica l'appuntamento con School on Air, il CPA di Bologna e il Teatro dell'Argine. Buona settimana a tutte e tutti, buon fine settimana, scriveteci redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna. Sempre un ringraziamento speciale al nostro Pasquale Pitagnello per il montaggio di questa puntata, ad Antonella Cortese sempre in redazione qui con me, ma soprattutto un ringraziamento speciale e particolarissimo a tutti voi che ci ascoltate dalle case circondariali e dalla nostra città e regione Emilia Romagna. Buona giornata. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.